Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, con voi di nuovo Sebastiano Barisoni. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo, faremo anche il punto della missione da non sottovalutare, anche e soprattutto da un punto di vista economico, del Premier Gentiloni in Africa. L'Italia è un partner importantissimo, ma soprattutto le cifre, le proiezioni di quello che è il futuro africano, che uno può tranquillamente anche legare al tema dei flussi migratori, perché molto spesso si è detto una soluzione di medio e lungo termine può essere aiutarli a casa loro, per usare certi slogan. Benissimo, l'Africa ha un ceto medio che è attualmente di 313 milioni di persone, ma nel 2030 sarà quasi doppio, di 500 milioni di persone. Ceto medio vuol dire per noi possibilità di export e quindi di consumi in Africa. Una popolazione giovanissima, il 60% della popolazione africana ha meno di 25 anni. Noi abbiamo un interscambio di 34 miliardi di euro con l'Africa, soprattutto grazie all'ENI, che da sempre ha una posizione fortissima in alcuni paesi africani, penso all'Angola, alla Nigeria, ma non solo, anche al Congo, Brazzaville e quant'altro. Però sta aumentando, e poi il Corno d'Africa, il Kenya, il Mozambico, e la parte dell'Africa invece non subsahariana, quindi l'Africa, diciamo che il Nord Africa. Però stanno aumentando anche altre voci da questo punto di vista, in particolare il fronte agroalimentare, e ne parleremo, così come ci sono altri accordi di carattere invece più tipicamente infrastrutturale e anche energetico, ma non di estrazione petrolifera, proprio di c'è un'importante attività che svolge, per esempio, Enel Green Power, Enel in Kenya, nell'elettrificazione delle aree rurali in Kenya. Selin in Pregilo sta costruendo la più grande diga la più grande diga dell'Africa, che verrà eretta appunto in Etiopia. Visto che si parlava di demografia africana, il volo non è pindarico, parleremo anche di demografia italiana. Il dato dell'Istat di oggi, lo dico a memoria futura della campagna elettorale che sta per iniziare, in cui immagino sentiremo come sempre dire che la famiglia è fondamentale, che ci vuole il quoziente familiare per il prelievo fiscale. Siamo d'accordissimo, di famiglia in questo paese si parla molto, moltissimo dal punto di vista ideologico, morale, etico, pochissimo dal punto di vista economico, ma i figli non si fanno solo con le idee e lo spirito, si fanno anche con i danè. Lo dico perché i dati di oggi dell'Istat sono inequivocabili: 12.000 nuovi nati in meno, in tutto poco sopra i 473.000 i nuovi nati, questo nel 2016. Abbiamo perso 100.000 nascite in 8 anni. In Italia si fa in media 1,34 figli per donna, che quindi è una natalità in calo, era 1,46 nel 2010. Tra l'altro stanno calando anche i figli delle donne straniere, perché la natalità è di 1,26 figli per le italiane, le cittadine straniere residenti sono a 1,97, erano 2,43 nel 2010. C'è sempre un percorso in questi casi di occidentalizzazione, chiamiamolo così. Dall'altro, tutti, anche le donne, le straniere residenti, hanno preso atto di una crisi e di una difficoltà ad andare avanti con la crisi, in primo luogo anche con le difficoltà salariali e quindi dei consumi. La cosa interessante, quindi, da questo punto di vista, pur essendo più alto, è calato molto anche, ed è calato molto di più in proporzione, da 2,43 figli pro capite per le cittadine straniere a 1,97, è calato molto di più rispetto a quello per gli italiani, da 1,34 a 1,26. Questo nel giorno in cui la manovra, per quello che riguarda il bonus bebè, ci fa sapere, non che la manovra sia un soggetto, diciamo, che parla, ma dentro la manovra leggiamo che questa è l'ultima versione dell'emendamento, a cui manca però ancora via libera definitivo. Il bonus bebè, da un lato, varrà per sempre, dall'altro però viene reso più leggero. Allora, per il 2018 saranno corrisposte le famiglie 80 euro al mese fino a 960 euro nel caso dei nati a gennaio. È chiaro che se nasce a gennaio. E quindi bisognava pensarci prima, però averlo saputo prima uno poteva programmare la nascita a gennaio, perché se nasce a gennaio 2018 ti becchi 80 euro al mese fino appunto a dicembre. Se nasce dal gennaio del 2019 l'assegno sarà di 40 euro al mese per un massimo di 480 euro l'anno, il tutto comunque con la soglia di 25.000 euro, la soglia ISEE di 25.000 euro. Difficile saperlo in anticipo, perché ci vogliono più o meno 9 mesi, se non ricordo male, dai 7 ai 9 mesi per fare un bambino. Bisognava iniziare a scommettere sull'emendamento alla manovra in tempi non sospetti. Faccio notare però che comunque è vero che adesso sarà definitivo il bonus, varrà per il primo anno di età del bambino, per il primo dopo l'adozione e non più per 3 anni. Detto questo, 960 euro, 480 euro non sono grande cosa, ma resta a mio avviso sullo sfondo la mancanza anche della politica riuscire a tradurre in maniera ancora più efficace quelle che si chiamano politiche per la famiglia. Poi le ricorderemo, i casi sono sempre i soliti: l'Alto Adige in Italia e la Francia in Europa sono i paesi che hanno tassi di natalità di 2 figli a testa, che, lo dico da un punto di vista demografico e statistico, è la soglia per mantenere il tasso tra morti e nati. Sotto quella soglia hai più morti che nati. Il rapporto tra richiesta e posti disponibili negli asili nido in Italia si ferma al 29% della copertura, siamo tra i paesi più bassi, e tra l'altro l'accesso ai bambini di età compresa tra 0 e 2 anni alla formazione prescolastica è calato, mentre nei paesi OCSE è cresciuto. Il congedo riservato ai padri in Italia un massimo di 3 giorni contro le 8 settimane della media dei paesi OCSE. Posso andare avanti, perché poi ricorderemo cosa fa la Francia, cosa fa la Gran Bretagna, cosa fa la Germania, con un principio unico. No, non sono, mi scrive un ascoltatore grande, Barisoni è anche ginecologo, no, mi ricordo, visto che un figlio ce l'ho. Un principio unico: il quoziente familiare è un elemento anche di equità. È assolutamente inaccettabile che lo stesso reddito guadagnato da e prodotto da una persona single senza figli venga tassato nello stesso modo in cui viene tassato quel reddito che serve per mantenere 2 figli e magari una moglie che ha deciso di non lavorare più perché non trova offerte soddisfacenti, con i costi che hanno le colf, le assistenti familiari. È un principio non solo demografico per aumentare la natalità, è anche un principio di equità. Tu stai tassando allo stesso modo due redditi che mantengono 2 posizioni completamente diverse. Allora, ecco, è arrivato il primo insulto, lo ringrazio, ma di che parli? Sei per caso un servo di propaganda delle Mink del PD? Vabbè, non mi sembra che il PD stia facendo una grande politica per la famiglia come nessun altro partito. Parlo di politiche vere e di valore economico, non solo di valore etico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e come sempre anche la diretta su Facebook. Andiamo con le notizie in breve, partendo dalla borsa. Dicevo, la borsa per quello che riguarda Milano, l'indice più 0,40%, in linea con Parigi più 0,60%, Francoforte più 0,40%, Londra più 1,1%, Dow Jones più 0,35%, bene oggi soprattutto Mediaset più 2,5% come Italgas, Mediolanum più 1,60% come Brembo e Saipem, A2A più 1,20% come Enel e Mediobanca. Il fronte di chi soffre invece sul listino oggi abbastanza variegato, però citiamo Telecom Italia meno 1%, Fiat meno 0,90%, CNH meno 0,80% come Leonardo ex Finmeccanica. Le notizie di carattere internazionale. Allora, interessante lo studio, ieri l'eccellente Simone Spezia ha parlato anche in questo programma dei Bitcoin. Oggi c'è uno studio sui Bitcoin, a parte che vale più di McDonald's e Walt Disney per ricapitalizzazione di mercato, sapete che chi vi parla è assolutamente scettico, o meglio, se uno ama il rischio può investire in Bitcoin, usarlo come valuta di scambio secondo me è un rischio altissimo. Comunque, il mining, il sistema utilizzato per emettere Bitcoin attraverso la potenza di calcolo di moltissimi computer sparsi nel globo, richiede elettricità per 30 terawattora all'anno, cioè più di quello che consuma l'Irlanda. Non è che questo sia un motivo per apprezzare o disprezzare Bitcoin, ma era interessante capire. Emettere criptovaluta richiede un'energia superiore a quella consumata in un anno dai paesi europei come Austria, Croazia e Ungheria, ma anche uguale a quella usata da ogni stato dell'Africa, eccezione di Algeria, Egitto e Sudafrica. Una singola transazione in Bitcoin utilizza un quantitativo di elettricità sufficiente ad alimentare 10 case americane. E di Bitcoin si è occupata oggi, e ho intervenuto sul tema, anche dopo l'inaugurazione dell'anno accademico alla Bocconi di Milano, la commissaria dell'Unione Europea alla concorrenza, Margrethe Vestager, che ha parlato anche di web tax. Se ne è parlato oggi qui al Sole 24 Ore perché c'era anche la quinta Retail Banking Conference. Però andiamo con ordine. Prima i Bitcoin, ha detto la Vestager, la Commissione Europea si sta preparando sulle monete virtuali e in particolare sui Bitcoin anche per verificare se sia necessario aprire un'indagine. Non abbiamo ancora deciso se aprire un'indagine. Sul tema della blacklist invece dei paesi che favoriscono comportamenti fiscali scorretti, è intervenuto in questo modo. Faccio notare che oggi Oxfam, che è una importante ONG di carattere mondiale, e chi vi parla per obbligo di trasparenza vi deve dire che è nel consiglio di amministrazione di Oxfam Italia, a titolo chiaramente gratuito. Oxfam pubblica un rapporto dove si sostiene che per essere efficace e credibile la blacklist dei paradisi fiscali dell'Unione Europea dovrebbe includere 4 stati membri della stessa Unione Europea. Non stiamo parlando solo delle isole e isolette, Irlanda, Lussemburgo, Olanda e Malta. Malta è un caso clamoroso, uno fa l'accordo che vuole, ti scrivono la legge che vogliono in base alle necessità che hai. Comunque, e colpire almeno 35 paesi extra europei. Il rischio, infatti, secondo Oxfam, è che dalla riunione dell'Ecofin di martedì prossimo esca una lista nera, dice Oxfam, sfumata di grigio, quindi annacquata e poco attendibile. L'Unione Europea ha messo sotto esame 92 paesi extra Unione Europea sulla base di una serie di criteri, ma non ha applicato gli stessi criteri ai 28 paesi membri. Allora, e questo si lega anche alla web tax, in qualche modo. Non è un paradiso fiscale, ma insomma il fatto che ci sia una concorrenza allucinante, assurda, dentro Europa. Abbiamo visto anche condanne per gli accordi presi da Lussemburgo, di cui Juncker fu presidente del Consiglio per 13 anni, dall'Irlanda, con i singoli grandi colossi, in particolare quelli del web, che andavano a ridurre ulteriormente la tassazione rispetto a una tassazione già bassissima, per accordi proprio dedicati one to one, e che la Commissione Europea ha bollato. Ha chiesto infatti a Dublino di farsi ridare i soldi. Dublino preferisce a questo punto pagare l'Apple di non rovinare gli accordi e la reputazione di paradiso fiscale. Sentiamo però al microfono del nostro Sergio Nava la Commissaria Europea Vestager proprio sul tema della blacklist per i paesi che favoriscono comportamenti fiscali scorretti. Il meccanismo di questa blacklist è che se stiamo a vedere le società con attività sospette nei paesi inclusi nella lista, avremo un segnale e le autorità fiscali potranno iniziare ad analizzare quello che succede. Non erano state inserite le aziende europee perché sappiamo già cosa accade in Europa con il tax ruling e quindi conosciamo la situazione. Per la funzionalità di questa blacklist è importante avere la situazione dei paesi terzi, in modo che l'Europa sappia cosa accade. Make my day. Ancora, visto che ne stavamo parlando, la web tax, sempre il nostro si aggiornava, poi aveva fatto una domanda anche sulla web tax, la considerazione dell'Italia sulla web tax, le considerazioni dell'Italia sulla web tax sono molto importanti e molto interessanti, ma la Commissione Europea, dice il commissario Margrethe Vestager, si augura che si riesca a trovare un approccio a livello europeo o meglio ancora a livello internazionale. Sentiamola sempre al microfono il nostro Sergio Nava. Sono idee molto interessanti e abbiamo bisogno di proposte sul tema in questo momento, poiché non è semplice riuscire a capire come poter tassare queste aziende. Uno dei parametri potrebbe essere quello del fatturato, ma a quel punto si pone il dilemma su che tipo di soglie, poiché non tutte le aziende hanno le stesse caratteristiche. Ci sono anche aziende che creano valore senza avere profitti elevati, senza ricavi consistenti, e quindi in questi casi bisognerebbe trovare una soluzione opportuna. Ritengo che le considerazioni dell'Italia siano molto interessanti e fonte di possibile ispirazione. Spero però che si possa trovare un approccio a livello europeo e ancora meglio se fosse a livello internazionale, perché si tratta di una problematica globale. Certo, come notizia di oggi c'è anche, lo ascolteremo dalla voce del ministro Padoan, ci sono anche i dati dell'Ocse, l'Italia stabile il PIL nel 2018 all'1,5%, è una buona notizia perché le previsioni precedenti vedevano un PIL in calo l'anno prossimo, invece se quest'anno facciamo 1,8 come è probabile e l'anno prossimo l'Ocse stima l'1,5%, è una buona notizia, vuol dire che non ci sarà una frenata brusca, magari se dovesse andare come quest'anno potrebbe esserci anche una revisione al rialzo. Nel 2019 il PIL è stimato all'1,3%. E mentre Padoan commentava i dati dell'Ocse, continuava e continua il viaggio in Africa del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. 4 tappe, lo scorso 24 novembre in Tunisia, poi Angola, oggi in Ghana e domani, prima di tornare in Italia, la Costa d'Avorio, dove si terrà il 5° vertice Unione Europea-Unione Africana. In cooperazione economica, molti di voi sanno che il presidente del Parlamento europeo Tajani ha proposto di portare il fondo di investimenti europei in Africa da almeno 40 miliardi, dagli attuali 33, e si stima che grazie all'effetto leva con la parte privata possa portare investimenti privati e anche pubblici intorno ai 500 miliardi di euro. E allora sentiamo Gentiloni commentare l'incontro con il Presidente della Repubblica del Ghana, Nana Akufo-Addo, relazioni economiche molto positive e soprattutto linee di credito per 25 milioni per le piccole e medie imprese. Il nostro interscambio col Ghana è basso, 500 milioni di euro, ma il nostro export è al massimo storico, 264 milioni di euro. Le nostre relazioni economiche sono molto positive. Siamo molto fieri innanzitutto dell'investimento che l'ENI ha realizzato in questo paese, un investimento di 7 miliardi di dollari che è l'investimento più importante negli ultimi 15 anni in Africa occidentale. Petrolio, gas, energie rinnovabili fanno parte del futuro dello sviluppo di ogni paese. La nostra collaborazione non si limita al settore energia, siamo pronti a collaborare in molti altri settori. Mi fa piacere di annunciare che l'Italia ha deciso di concedere una linea di credito di 25 milioni dedicata esattamente allo sviluppo di macchinari in questi settori. Siamo alla vigilia del vertice tra Unione Europea e Unione Africana. Al centro di questo vertice sarà il futuro dei giovani. E allora vediamoli questi numeri, numeri importanti, dicevo, perché non solo l'Africa complessivamente ha un'età media di 60% della popolazione a 25 anni. Si stima però che a fronte dei 10 milioni di giovani che diventano forza lavoro ogni anno, attualmente sono solo 3 milioni i posti di lavoro che vengono creati in Africa, parliamo dell'Africa subsahariana in questo caso. Per assorbire le nuove generazioni dovranno essere creati almeno 18 milioni. Nel 2050, visto che la popolazione europea, ne parleremo dopo, con i tassi demografici italiani resterà stabile, un quarto della popolazione mondiale sarà africana e solo un ventesimo sarà europeo, e tra l'altro anche in quell'età almeno un quarto della popolazione oltre 60 anni, tranne in Africa, un quarto della popolazione, scusatemi, avrà oltre 60 anni. Venendo al nostro rapporto, 34 miliardi di interscambio, siamo tra i paesi principali, Corno d'Africa, Nigeria, Angola, Kenya, Mozambico e Mediterraneo. Terzo investitore mondiale, primo investitore europeo nell'Africa subsahariana nel 2016. Terzo mondiale non è male, è considerato il ruolo della Cina, e primo investitore di carattere europeo. Certo che c'è energia, agroalimentare, infrastrutture, punto Salini in pregilo con la diga in Etiopia, Eni, non sto neanche a citarla, tra Angola, Nigeria, Congo, Brazzaville, Mozambico, nell'elettrificazione delle aree rurali in Kenya, Enel Green Power che si sta espandendo, Cremonini, poi ne parleremo, grossi hub per trasformazione dei prodotti agroalimentari e molte altre imprese. Alberto Negri ne ha scritto sul Sole 24 Ore. Alberto Negri, buonasera. Buonasera a tutti voi. Tu ricordavi l'importanza della filiera africana per quello che è la parte più storica e quindi il ruolo dell'ENI da sempre, insomma dai tempi di Mattei in poi. Quello che mi sembra di cogliere però è che a fianco al ruolo fondamentale che ha svolto l'ENI, perché in molti posti che io stesso, tu ne hai visti tantissimi, ho potuto testimoniare che l'ENI diventa praticamente una nostra Farnesina, ha un ruolo anche diplomatico fondamentale, ma al di là di questo si sta sviluppando tutto un insieme di altri rapporti, diciamo, di interscambio alimentare, infrastrutturale, energetico. Alberto. Ma non c'è dubbio perché l'Italia è un paese complementare con la gran parte, la maggior parte delle economie africane. Teniamo presente che il 70% delle esportazioni dell'Africa, totali dell'Africa oggi, sono rappresentate da materie prime, in gran parte ovviamente gas e petrolio e poi minerali, tra cui anche quelli preziosi, che conosciamo molto bene. Ecco, di fronte a economie di questo genere è chiaro che l'economia italiana ed europea dovrebbero essere appunto complementari e portare quello famoso sviluppo di cui si parla tante volte, che poi sfocia nel famoso slogan aiutiamoli a casa loro. Ecco, lo slogan può diventare interessante se si riesce ad agire come moltiplicatore, come vorrebbe l'Unione Europea, si banalizza se si pensa che lo sviluppo da solo possa in qualche modo placare le problematiche africane, anzi si è visto che una certa dose di sviluppo e di istruzione molto spesso portano gli stessi africani a scappare via dai loro stessi paesi. Ecco, da questo punto di vista noi abbiamo fatto anche intere puntate anni fa, sulla Cina e tra virgolette la colonizzazione cinese in Africa. L'Europa mi sembra che stia cercando di avere un nuovo ruolo, cioè per anni noi abbiamo lasciato, mi riferisco agli anni soprattutto prima della crisi, abbiamo ignorato spesso l'Africa e lasciato che i cinesi occupassero intere posizioni, soprattutto con questi scambi molto vantaggiosi in cui loro gli davano le infrastrutture, il pacchetto completo, ponti, autostrade, dighe, in cambio diritti di pesca per anni e anni. Se ne era accorto un po' di più gli Stati Uniti, ma noti adesso invece una maggiore attenzione europea, al di là del piano di Tajani, e anche una voglia di non farsi scippare quello che è l'economia vista in proiezione con la massima espansione? È esattamente come hai descritto tu. I cinesi hanno fatto man bassa in Africa in questi anni proprio perché portavano dei pacchetti chiavi in mano e addirittura evitavano persino di usare la manodopera locale. Sono arrivati a utilizzare nei cantieri anche i carcerati, no? I detenuti cinesi, però non africani, non africani, non cinesi, sì, proprio. Sì. E la Cina ha praticamente conquistato buona parte dei paesi africani, dove gli altri spesso non vanno perché sono zone ad alto rischio, per esempio il Kenya, la Somalia, l'Eritrea, no? Hanno costruito anche delle strade ferrate importanti da Addis Abeba sul Mar Rosso, poi stanno facendo l'alta velocità in Kenya, hanno posto una base militare importante a Gibuti. Insomma, l'Africa è per la Cina così importante che hanno aperto 100 istituti culturali Confucio in tutto il continente. Ora è chiaro che di fronte a questa avanzata l'Europa doveva reagire. E come reagisce? Reagisce alla sua maniera, portando le piccole e medie imprese e inquadrando questi aiuti in politiche di sviluppo che non sono esattamente quelle dei cinesi. I cinesi prima di tutto puntano a portare a casa commesse per le loro imprese e degli utili. L'Europa può portare a casa anche dei programmi sociali di sviluppo che in qualche modo possono stabilizzare questi paesi. E tra l'altro, a partire dall'Italia, noi abbiamo una storia proprio su questo di rapporti molto più bilaterali, cioè non andiamo a fargli il pacchetto e far lavorare solo le nostre imprese, ma c'è anche un approccio diverso, non dico 50-50, ma sicuramente più accettabile dal punto di vista africano, perché molti hanno parlato di neocolonialismo cinese. Io sono d'accordissimo, è un approccio coloniale quello che ha la Cina nei confronti dell'Africa. Ma non c'è dubbio. Ecco, no, non è che coloniale è solo quello bianco diciamo col Panama, ecco, per capirsi. Ultima domanda, Alberto, visto che tu conosci moltissimo l'area, sia sul fronte subsahariano che sul fronte nordafricano, lasciamo stare il Nord Africa per un attimo. Quali sono gli elementi più rischiosi o che potrebbero bloccare questo percorso? Perché vediamo in Kenya, per esempio, da settimane fortissime tensioni di carattere elettorale. Cioè c'è ancora il problema della stabilità politica o in realtà, come molti dicono, guardate che qua bisogna parlare di Africa e non di Africa, perché l'Africa occidentale è molto diversa dall'Africa orientale, ci sono interi paesi, appunto, Corno d'Africa, che hanno e Mozambico prospettive molto diverse da Nigeria o Kenya, prego. È esattamente come dici tu, un'Africa è un continente, ma non si può parlare di Africa, ma di molte Afriche diverse. Certamente, come tu sai benissimo, operare in Nigeria pone determinati problemi, lo sappiamo, Leni per esempio li conosce molto bene, ma per esempio l'investimento che è stato fatto adesso in Ghana, 7 miliardi, non sono assolutamente pochi per un paese come il Ghana, ha avuto anche la benedizione della Banca Mondiale, perché sono investimenti che in qualche modo puntano a far decollare il paese. Gran parte del gas o del petrolio che verrà estratto sarà usato all'interno di questi paesi per creare sviluppo, prima di tutto dal punto di vista della popolazione, ma anche delle industrie che potrebbero essere insediate lì, con energia a buon mercato, materie prime sul posto. È chiaro che l'Africa può diventare un investimento molto interessante. E dopo il meteo ricorderò anche alcuni degli investimenti già annunciati o accordi già firmati anche a luce di questa missione. Grazie intanto ad Alberto Negri del Sole 24 Ore. Anzi, facciamolo subito, direi, perché da questo punto di vista ci sono. Noi siamo, oltre che il terzo investitore mondiale, il primo europeo nell'Africa subsahariana. Siamo abbiamo una posizione di totale rilievo in Angola, che è il nostro terzo partner commerciale, appunto, nell'Africa subsahariana. Il primo è in Sudafrica, il secondo è la Nigeria, ma lì il dato è tra virgolette falsato, perché Nigeria è un importantissimo paese per l'estrazione dell'ENI, come anche l'Angola, dove però noi collaboriamo anche nell'agroalimentare, allevamento, infrastrutture, trasporti, formazione e trasformazione della pesca. Esportiamo prodotti alimentari, mobili, prodotti farmaceutici di base e macchinari. Tra l'altro ha siglato l'amministratore delegato di ENI, Claudio Descalzi, due accordi con Sonangol, la società petrolifera di Stato. La prima intesa assegna a Eni il 48% dei diritti del blocco onshore di Cabinda North, di cui Eni diventa anche operatore. Invece il blocco Cabinda North è un bacino petrolifero poco esplorato nel nord del paese. E poi ha firmato un memorandum of understanding per la definizione di progetti congiunti in altre parti della catena dell'energia. È in Angola dal 1980 e produce 155.000 barili di petrolio equivalente al giorno. Poi in Alca, Gruppo Cremonini ha annunciato con Cassa Depositi e Prestiti la sigla, attraverso la propria controllata angolana, di un protocollo d'intesa per lo sviluppo del Centro Nazionale Agroalimentare, un investimento che arriverà fino a 150 milioni di euro. Un polo a Luanda per trasformare, conservare e distribuire i prodotti agroalimentari angolani. E poi Dania Computing ha un investimento di 7 miliardi di dollari, il più importante negli ultimi 15 anni nell'Africa occidentale. Andiamo sul meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, siamo riusciti a metterci in collegamento anche con Luanda e quindi chiaramente in Angola, dove per commentare, come abbiamo fatto con Alberto Negri, la missione del Presidente del Consiglio, avete sentito anche le sue dichiarazioni, e il ruolo che ha l'Italia e non solo l'Italia energetica, cioè a fianco all'ENI, tutti gli altri canali, settori che si stanno sviluppando. Siamo in collegamento finalmente, c'è un po' di problemi, con il presidente di Federalimentare, visto che commentavamo l'accordo Cremonini, ma non solo, e mi riferisco a Luigi Scordamaglia, che rappresenta oltre 7.000 imprese del settore alimentare. Buonasera Scordamaglia. Buonasera, scusate il rumore, ma sono già in aereo. Ecco, non vorremmo farla parlare mentre decolla, perché non è molto sano e buono. Oltre al ruolo di Cremonini, che ricordavamo, voi avete anche firmato questo accordo, appunto l'accordo Inalca, gruppo Cremonini, con Cassa Depositi e Prestiti. Che altre tipo di memorandum of understanding, trattative sono in corso, e che qual è il suo giudizio di questo viaggio molto importante che noi ricordavamo prima nei vari paesi africani, quindi Tunisia, Angola, Ghana e Costa d'Avorio? Ma è un viaggio di fondamentale importanza, perché vi ricordo che l'Italia è il primo investitore europeo e terzo mondiale nell'Africa subsahariana. Questa volta la novità è stata che, oltre che avere al centro le risorse petrolifere, l'agroalimentare è stato costantemente al centro degli incontri con i vari presidenti, in Angola in particolare, perché l'Italia viene sempre più vista come partner ideale per la diversificazione dell'economia che è in corso in questi paesi, e come modello ideale per lo sviluppo sostenibile agricolo. Quindi noi abbiamo preannunciato Cassa Depositi e Prestiti, e ovviamente il partner ideale per aziende italiane in queste aree non certo facili, dove bisogna avere le dimensioni, dove bisogna essere consolidati da tempo, ma se in questa specie di piano Marshall europeo per l'Africa si capisce e si sta capendo che il referente per l'agroalimentare sostenibile deve essere l'Italia con le sue tante piccole e medie imprese, e se questi organismi nazionali italiani, come stanno facendo, riescono a garantire nel ruolo di cofinanziatori, garanti, investitori, la copertura anche alle tante piccole e medie imprese che vengono dietro di noi, dietro quelle più grandi, io credo che si tratti di un approccio win-win che porta tantissimo alle nostre aziende italiane, ma ancora di più alla creazione di ricchezza in loco, ed è anche un motivo per ridurre il fenomeno migratorio. Ecco, senta Scordamaglia, nella sua esperienza, visto che lei fa anche l'amministratore di un gruppo, qual è... Sì. Alberto Negri l'avete contattato apposta? No, Alberto Negri l'abbiamo contattato perché, come dicevo, scrive oggi sul Sole 24 Ore un pezzo molto bello sull'importanza della filiera africana. Ma qual è l'interesse più forte? È per i macchinari nel settore alimentare e agroalimentare, o per il prodotto finito da prodursi in parte lì, o diciamo anche la formazione, quindi abbiamo visto anche l'interesse per arrivare a centri di ricerca? Nessuna di queste tre cose singolarmente, ma tutte e tre insieme, nel senso che loro non hanno bisogno che qualcuno diventa dei macchinari che poi magari non saprebbero neanche usare, hanno bisogno che grandi, medie e piccole imprese vengano qua, facciano joint venture con loro, investano e facciano quel salto nell'agricoltura sostenibile, perché hanno delle potenzialità agricole enormi che le porti ovviamente a produrre qui tutta una serie di commodity, non certo i prodotti ad alto valore aggiunto italiani che sono e rimangono italiani, ma tutta una serie di commodity che poi da cui dall'Africa subsahariana possono andare in altri paesi africani con valore aggiunto, possono andare addirittura sul mercato mondiale. Quindi tutto insieme, compresa la formazione a cui lei accennava, perché ovviamente il valore aggiunto delle nostre aziende è che poi prendono molto spesso queste persone, tantissimi giovani, l'Africa subsahariana è altissimo il contenuto di giovani, li portano ovviamente in Italia, molto spesso li formano per poi tornare a far crescere culturalmente e localmente la popolazione giovanile. Grazie Luigi Scordamaglia. Domani appunto c'è l'ultima tappa anche per il Presidente del Consiglio, cioè il quinto vertice Unione Europea Unione Africana, e si parlerà anche, oltre che di cooperazione economica, di gestione dei flussi migratori, sicurezza e cambiamenti climatici. È inutile, lo dico a chi mi scrive, ironizzare sull'Africa, se poi quando arrivano, ragioniamo dei flussi migratori, diciamo sempre che bisogna creare ricchezza in Africa, e poi, visto che ne parlava il grande Alberto Negri, se è così sbagliato, come scrive qualcuno, così marginale l'Africa, perché i cinesi hanno compiuto, come ricordavamo prima, in 25 anni una colonizzazione totale, soprattutto dell'Africa est, ma non solo? Saranno stupidi i cinesi o forse siamo noi che ci siamo mossi tardi? Non come colonizzazione, ma come rapporti di scambio in questo caso. Grazie di nuovo Luigi Scordamaglia. Andiamo sul traffico e poi la borsa, che ha chiuso in rialzo di quasi mezzo, anzi di mezzo punto percentuale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Just hope it ain't the money, money, money, money, money. Love me, honey. You got me singing Georgia. La borsa più 0,50% Milano, come Parigi più 0,57%, Francoforte più 0,46%, oggi tutte allineate le borse, Londra più 1%, Dow Jones più 0,52%, pochi cali devo dire e nemmeno così significativi, lo 0,80% lo perde Case New Holland Industrial, CNH, Telecom Italia meno 0,60%, Fiat Chrysler mezzo punto percentuale come Leonardo, Buzzi Unice meno 0,40%. Bene invece Italgas più 2,50, Mediaset più 2,1, Brembo più 1,80 con Mediolanum, Saipem più 1,70, Enel più 1,5, Banco BPM più 1,40, Fineco più 1,30%, A2A più 1,20%. Andrea Fontana, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Dunque, il dato statunitense della fiducia dei consumatori un po' sopra le attese, mi sembra che forse la notizia più forte oggi abbia riguardato quasi l'euro, tornato per un po' sopra quota 1,19, adesso 1,18,81, bene le utilities, quindi partiamo da Italgas ma anche A2A. Sì, giornata protagonista per le utilities, sia per Italgas, che è stata spinta in particolare dalle stime di Goldman Sachs, che vede un margine al 2018 superiore alle previsioni, sopra gli 800 milioni, anche per in virtù di un maggiore successo nel contenimento dei costi. Bene A2A più 1,2%, visto che prosegue, alcune indiscrezioni sono uscite ieri, il progetto di creazione della multi-utility lombarda, coinvolgendo anche ACSM, Agam, quindi Monza e Como, sta proseguendo, ma bene soprattutto Acea fuori dal FTSE MIB, ha guadagnato il 3,6% nel giorno della presentazione del piano al 2022, un piano che vede a fine periodo un margine operativo lordo sopra il miliardo. Una crescita del utile netto a 282 milioni nel 2020. Il mercato ha reagito positivamente, ripeto, in una giornata positiva per l'utility a Milano, ma per l'energia un po' in tutta Europa, nonostante ancora una piccola correzione del greggio in attesa del vertice dell'OPEC di giovedì. Tra le banche ho visto Unicredit oggi più 0,90%, oltre che FinecoBank. Qui va avanti Unicredit, che è tornata, se ben vedo, sopra i 17 euro per azione. Fammi dare il prezzo di fine, no, 16,90 nel finale. Ma comunque, ieri ha annunciato la vendita di un altro pacchetto di crediti deteriorati per 715 milioni. Sì, esattamente, sta continuando nella sua operazione di smaltimento delle sofferenze. Il mercato è sempre molto sensibile, anche se il prezzo di vendita, secondo quanto è uscito nelle indiscrezioni, sarebbe particolarmente basso rispetto a quello detenuto al valore nominale in portafoglio, ma in una giornata complessivamente positiva per il settore bancario, Unicredit si è distinta, hanno recuperato recuperato terreno anche Banco BPM, ha guadagnato l'1,4%, ieri era stato tra le peggiori del FTSE MIB, e anche Mediobanca che è stata la controparte dell'operazione con Unicredit, che quindi beneficerebbe di questo prezzo particolarmente basso emerso dalle indiscrezioni, 12-13 centesimi per euro rispetto al valore nominale della sofferenza. Mediobanca ha guadagnato l'1,2%. Allora andiamo sui migliori e peggiori in assoluto: Roma Calcio più 15,29, Landi Renzo più 9,13, Industria Innovazione più 9,13, Digital Bros più 6,80, fronte opposto invece Bialetti Industria meno 4,5, Metecnimo meno 4,5, P Quadro meno 4,30, CT Biofarma meno 4,20%. Grazie da Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore. Adesso andiamo su GR24, poi ascolteremo invece anche la dichiarazione sempre con il nostro Sergio Nava del commissario Vestager per quello che riguarda la Luxottica, la procedura con cui l'Unione Europea deve autorizzare la fusione tra Luxottica ed Essilor. Dopo il GR poi parleremo di demografia, del dato sicuramente non bello di oggi dell'Istat: continua il calo delle nascite e dei figli per donna anche tra le straniere. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. To add myself. 18:07 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Leggo un messaggio che mi fa particolarmente piacere, intanto perché mi scrive: sto seguendo la trasmissione da Nairobi in Kenya. Bello, peccato non venga rilevata da Viradio o chi per essa. Allora, sono direttore export della Pedrollo San Bonifacio PET Africa, dove la nostra azienda esporta in 30 paesi. Da 15 anni copro questo ruolo e confermo la forte presenza dei cinesi e il grande potenziale inespresso dell'Italia in vari settori, però manca visione e strategia. Mi sembra sicuramente mancata nel passato, mi sembra però che queste missioni, devo dire, prima che le inaugurò Renzi, si può dire Renzi senza essere insultati, sì, secondo me le inaugurò Renzi, queste missioni sono importantissime, anche perché sono missioni fatte con a seguito le imprese grandi, come nel caso di Enel, Eni, Enel Green Power, CDP, ma anche le imprese rappresentate, prima era in collegamento con noi da Luanda proprio il presidente di Federalimentare, visto con degli accordi importanti in Angola riguardo al gruppo Cremonini, fino a 150 milioni di euro. Non chiusa con la borsa, perché c'è una notizia che riguarda un titolo quotato, mi riferisco a Luxottica. Come anticipavo sempre al microfono del nostro Sergio Nava, la commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager, oggi in una conferenza stampa al termine dell'inaugurazione dell'anno accademico alla Bocconi a Milano, ha detto: non siamo ancora vicini a una scadenza per autorizzare la fusione tra Luxottica ed Essilor. On Luxottica, we're still in the process. So che il procedimento è in corso. Si tratta di aziende molto importanti che hanno una leadership a livello globale nell'ambito delle montature e degli occhiali. Stiamo analizzando il dossier, ma non conosco ancora la scadenza. So we're not near the deadline yet. It will still take some time. Adesso andiamo alle altre due notizie importanti della giornata. Una riguarda l'OCSE, che ha rivisto al rialzo le stime di crescita per l'Italia per l'anno prossimo. Il dubbio più forte infatti su questa ripresa, che dal punto di vista aggregato c'è, poi so benissimo che è una ripresa macchia di leopardo, che alcuni la vedono in maniera anche forte e insistita, altri non la vedono per nulla, però è che il dato dell'1,8% che dovremmo raggiungere quest'anno, rivisto nettamente a rialzo rispetto all'1% previsto diciamo inizio anno, vedeva un 2018 con un rallentamento abbastanza forte, perché non si andava oltre l'1%. Invece oggi l'OCSE dice: no, la crescita italiana nel 2018 sarà l'1,5% e poi scenderà all'1,3% nel 2019, anche questo rivisto al rialzo. E poi chiede però all'Italia di non mollare, per quello che riguarda il prossimo governo, non mollare sul piano delle riforme, e rallentare il ritmo farebbe deragliare la ripresa duratura. E chiaramente il ministro Padoan dice: beh, mi fido dell'OCSE, le stime sono migliori delle nostre. Infatti il governo per quest'anno prevede ancora l'1,6 e non l'1,8 che prevede l'OCSE. Questo a margine al convegno dell'ANIA sulla stabilità. E poi sempre il ministro Padoan ha detto: attenzione, l'uscita dal quantitative easing e quindi dal mondo dei tassi bassi e dell'acquisto di titoli di Stato, che mantiene appunto anche oggi è stata un'asta importante in cui abbiamo toccato un nuovo minimo storico nel rendimento, l'uscita del quantitative easing non ci deve spaventare, ci sono anche aspetti positivi. L'uscita dal QE e quindi dal mondo di tassi bassi è già avviata negli Stati Uniti, non lo è ancora, ma in prospettiva viene valutata in Europa ed è giusto che sia così. E noi dobbiamo, con la velocità necessaria, quindi non troppo rapida ma neanche troppo lenta, uscire da questa situazione per tornare a una situazione di normalità. Una situazione di normalità in cui il QE sarà più o meno esaurito non deve spaventare, io capisco che anzi in alcuni casi è auspicabile, anzi deve essere una situazione in cui ci sono aspetti positivi. Se ci sono tassi più alti vuol dire che i margini di profitto degli investimenti finanziari sono maggiori, questo fa bene dal punto di vista delle risorse per gli investimenti, questo vale per le assicurazioni, vale per le banche, per gli altri intermediari finanziari. In un mondo di tassi più alti ci deve essere anche un po' più di inflazione, che è il vero problema che oggi ancora ci affligge. Se c'è un po' più di inflazione, la dinamica del PIL nominale per un paese come l'Italia migliora e questo significa un immediato impatto positivo sul debito, che scende più rapidamente. Certo. Allora, devo chiarire che alcuni me lo chiedono che cosa vuol dire quest'ultimo ragionamento di Padoan sull'inflazione. Allora, i tassi bassi è ovvio che ci avvantaggiano, abbiamo rendimenti negativi per i bot e minimi storici comunque anche per i BTP, cioè paghiamo molto meno per trovare finanziatori per il nostro debito, dobbiamo offrire meno. Però l'inflazione in generale, oltre che essere l'obiettivo della Banca Centrale Europea per iniziare a rialzare i tassi, perché finché non la vede intorno al 2% non li rialza Mario Draghi, ha un effetto benefico sul nostro debito come ha un effetto benefico su tutti i debitori. Mi spiego, se tu devi 1000 euro a una persona e avessi un'inflazione enorme, insomma del 10%, ma solo per rendere l'esempio facile, i tuoi 1000 euro come valore reale un anno dopo varrebbero 900 euro. Come valore reale, perché hai un'inflazione del 10%. Quindi il ragionamento che faceva Padoan è: attenzione, quando i tassi verranno un po' rialzati perché c'è inflazione, dobbiamo anche ricordarci che l'inflazione a un paese che ha un enorme debito come il nostro rende il valore reale del debito un po' più basso di anno in anno. A proposito di tassi, poco fa quello che prenderà il posto di Janet Yellen alla guida della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, mi riferisco a Jerome Powell, ha dichiarato di vedere le condizioni economiche statunitensi, le condizioni economiche americane sembrano sostenere un rialzo dei tassi il mese prossimo. Lo ha detto durante l'audizione alla Commissione bancaria del Senato americano. Le condizioni economiche sembrano sostenere un aumento dei tassi già da dicembre. Wall Street non reagisce, più 0,60%. I dati demografici, vedo moltissimi messaggi al 349-238-6666 sia SMS che WhatsApp sul tema. Allora partiamo dalla notizia. Nel 2016 sono nati in Italia 473.438 bambini, ossia 12.000 bambini in meno rispetto al 2015. In 8 anni, dal 2008-2016, le nascite sono diminuite di 100.000 unità e questo si chiama effetto crisi e assenza di politiche per la famiglia, vere, economiche. Allora, due fattori secondo gli esperti: gli italiani in età riproduttiva sono sempre meno numerose e hanno una propensione decrescente ad avere figli. Attenzione, perché la cosa a mio avviso interessante è che se è calato il numero medio di figli per donna italiana da 1,46 del 2010 a 1,34, è calato molto e anche molto di più in proporzione il numero di figli per cittadine straniere residenti dal 2,43 nel 2010 a 1,97 l'anno scorso. La riduzione del numero di medio dei primi figli per donna è responsabile per il 60% del calo complessivo della fecondità, cioè sono soprattutto famiglie che decidono di non avere neanche il primo figlio, non il secondo o il terzo. Questo è il giorno in cui il bonus bebè, come ricordavamo, sarà più leggero dall'anno prossimo, o meglio, l'anno prossimo 80 euro al mese fino a 960 euro massimi per chi ha un ISEE di 25.000 euro e il bambino nasce a gennaio. Dal 2019 40 euro al mese, la battuta è stata, ve l'ho saputo prima, uno si programmava a fare tutti i figli a gennaio. In realtà mi sembra che al di là di tanta retorica sulla famiglia, i figli e quant'altro, qui manchino politiche vere di agevolazione, non sono solo economiche in senso stretto, qualcuno mi scrive, ma insomma gli asili aziendali, gli orari di lavoro, gli orari dei servizi, però sono anche economiche. Perché lo dico? Nel salutare Alessandro Rosina, professore di demografia alla Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano, nonché editorialista anche del Sole 24 Ore. Buonasera, professore. Buonasera. Perché se uno va a guardare con molto pragmatismo il caso francese, quello citato, due figli, è l'unico paese europeo che ha un tasso di natalità che permette il cosiddetto ricambio, cioè più nati che morti. Grazie a cosa? Anche a 185 euro al mese per il bambino, più un premio di 1000 euro alla nascita, si chiama prestazione di accoglienza del bambino, viene elargito dopo il quarto mese di gravidanza in modo da permettere di sostenere le spese iniziali, quindi te lo danno prima che nasca, altro che tutta sta polemica sul nascituro, prima che nasca, e dura fino a 3 anni di età. È un po' diverso dal nostro bonus, un po' diverso tanto. Poi ci sono gli assegni familiari per chi ha due figli, sono altri 129 euro al mese, che non è tantissimo, però insomma aiuta, moltiplicato in un anno, e per chi ne ha tre sono 300 euro al mese. Chi va oltre ne ottiene altri 165, e poi fondi per ottenere un aiuto per babysitter e custodia del bambino. In Germania il governo, la Germania ha comunque un problema di natalità, ma il governo ha previsto il diritto a un posto in asilo ad ogni bambino che vive in Germania, deve garantire il posto d'asilo. Se non lo fa, la famiglia può fare ricorso e entro 3 mesi deve essere trovata una sistemazione in asili comunali o privati. Poi ci sono in Germania 184 euro al mese di Kindergeld, che per i primi due bambini vanno a 190 e poi 215 per i successivi nati. E poi congedi parentali flessibili, 24 mesi di assenza retribuiti fino all'ottavo anno di età o assegni speciali per il lavoro part-time. In Gran Bretagna, per una famiglia del ceto medio con due bimbi, gli aiuti arrivano a 3.170 euro all'anno. Qui stiamo parlando di 960 euro col bonus bebè l'anno e 480 dal 2019. 3.170 euro l'anno. In Gran Bretagna ha un tasso di fecondità abbastanza alto, 1,92, vicino a quello francese. Inoltre i genitori ricevono un contributo mensile di 100 euro per il primo figlio e di 164 dal secondo figlio in avanti. Ora, dopo il traffico, le chiederei una cosa molto semplice, Rosina. Al di là di tutta questa retorica sull'importanza della famiglia, fanno solo i figli di stranieri, è tutto qui il problema? Cioè, quoziente familiare sulla tassazione, un single non può essere tassato come un padre che mantiene una famiglia e magari anche la moglie, e incentivi veri, magari togliendoli da altre parti? La risposta dopo il traffico. Focus Economia. I have a dream. And one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Beh, il sogno è facile, no? Smetterla con la retorica sull'importanza della famiglia e passare ai fatti concreti con l'aiuto alle famiglie. Non vuol dire mettere la tassa sul celibato, vuol dire ridurre la tassazione a, e questo è il quoziente familiare, a chi mantiene famiglia, magari con la moglie anche a carico perché non trova lavoro, o il lavoro che viene offerto è inferiore al costo che avrebbe per la babysitter o per la golf. tra l'altro su questo vedo moltissimi messaggi. Io faccio notare una cosa banale: con la classifica del venerdì adesso non ho mai fatto un calcolo, ma con gli sprechi che raccontiamo nella pubblica amministrazione, con l'incapacità di riuscire a aggredire veramente la spending review in maniera seria, ma io così a naso avremmo trovato anche noi forse i soldi per un investimento sul quoziente familiare, oppure su quello che viene dato in automatico in Francia, Germania e Gran Bretagna, oltre al fatto che nei paesi OCSE in realtà i congedi parentali sono 8 settimane, da noi per il padre 3 giorni, di cui solo il primo obbligatorio. Rosina, è tutto qui la questione, così lo lasciamo come memorandum per le elezioni e la campagna elettorale? No, la questione appunto è la concretezza, avere in mente cosa serve al paese, quali obiettivi darsi, cosa ci serve per crescere, per essere più solidi, per mettere in relazione positiva demografia, economia e benessere delle famiglie, e poi fare le politiche che servono in quella direzione, perché queste politiche poi producono benessere, ricchezza, quindi in un dinamismo che non guarda solo a dove andiamo a tagliare oggi, ma guarda a che cosa otteniamo di più domani grazie agli investimenti, a un welfare che diventa vero investimento sociale e che quindi aiuta le persone a realizzare appieno i propri progetti di vita assieme alla capacità poi di stare, di realizzarsi dal punto di vista anche professionale. E quindi è proprio un sistema che va in qualche modo aiutato a riorientarsi e attivarsi come circolo virtuoso, e questo effettivamente evidentemente non sta funzionando in Italia, perché se ci troviamo con le nascite di cui registriamo ogni anno la progressiva caduta, l'occupazione femminile che continua a essere tra le più basse in Europa, e la percentuale di NEET di giovani che non studiano e non lavorano e che quindi dipendono passivamente dalla famiglia tra i più alti in Europa, è chiaro che andremo a produrre squilibri, non solo squilibri demografici che diventeranno sempre più difficilmente sostenibili, perché vorrà dire, soprattutto con un debito pubblico, come avete ben detto, così alto in Italia, anche i costi di un invecchiamento che diventerà appunto sempre più accentuato. Quindi noi dobbiamo ritornare a aumentare, mettere in rapporto virtuoso, quindi presenza sul mercato del lavoro, valorizzazione delle persone all'interno delle aziende, delle organizzazioni, e possibilità che questo però si combini con scelte di vita che siano appunto di contributo positivo. Allora, su questo... Lei giustamente ricorda anche l'importanza per la sostenibilità del welfare, cioè noi possiamo immaginare che tutto il nostro welfare venga sostenuto dai flussi migratori, oppure che ci sia un minimo di crescita demografica che sostenga un welfare in cui l'età, ben venga, ci mancherebbe, l'età media si allunga, però poi qualcuno deve mantenere il suo welfare. Qui sta la questione, non ce ne rendiamo conto, perché proviamo a guardare il profilo, la struttura demografica del nostro paese. Noi da qui al 2031, quindi vuol dire fra 15 anni sostanzialmente, poco meno di 15 anni, perderemo oltre 4 milioni di persone nell'asse portante dell'economia e del sistema produttivo del paese, cioè tra i 25 e i 54 anni. Ora, che cosa? E ovviamente cresceranno in maniera rilevante le persone che progressivamente si ritireranno dal mercato del lavoro, perché dal mondo del lavoro, perché andranno in pensione sempre di più i baby boomers. Quindi avremo, rispetto a oggi, già oggi facciamo fatica a crescere, ma nei prossimi decenni avremo ancora molti di più persone in pensione e molte di meno persone invece al centro del sistema produttivo, in grado quindi di produrre ricchezza. Quindi l'idea è questa. Cioè, sì, però l'Italia, Rosina, lei sa molto bene che se io vado da una coppia, che tra l'altro in Francia ottiene anche benefici se si sposa, ma dico, se vado da una coppia e dico voi dovete riprodurvi e soprattutto dovete farlo perché sennò non si riuscirà a sostenere il nostro welfare, mio e vostro, fra 40 anni, questi mi dicono sì, chi ce li dà i soldi per i pannolini che restano in Italia tra i più cari? Chi ce li dà gli asili nido? Chi la flessibilità sul lavoro, gli asili nido anche aziendali, i congedi parentali, il quoziente familiare per cui una persona che ha 4 figli viene tassato esattamente come un single? Non voglio tassare di più il single, voglio tassare di meno chi ha 4 figli. Questo mi rispondono, perché poi la sostenibilità previdenziale è si vedrà. Intanto io devo campare oggi. Assolutamente, ma infatti no, questo è per ragionare su quali sono le scelte che dobbiamo fare collettivamente come paese oggi. Perché noi non dobbiamo convincere nessuno, perché se noi andiamo a vedere i dati, non solo dell'Istat, ma anche i dati che abbiamo noi del rapporto giovani sulle intenzioni, i progetti di vita dei giovani, il numero desiderato di figli che vorrebbero fare i giovani italiani, gli attuali ventenni, è del tutto in linea con i coetanei francesi. Quindi basterebbe semplicemente, certo, metterli nelle condizioni. Non dobbiamo convincere nessuno, non dobbiamo convincere a fare figli, a formare famiglia. Tra l'altro, se noi abbiamo anche chiesto a quale età tu vorresti lasciare la famiglia d'origine con iniziare un tuo percorso di vita autonomo, anche lì perfettamente allineati con i coetanei degli altri paesi. Cioè, se noi guardiamo quello che i giovani vorrebbero essere e vorrebbero fare, sono esattamente simili ai coetanei degli altri paesi. È che in Italia di meno riescono a farlo, hanno meno strumenti e meno politiche che li aiutano a uscire dalla condizione di figli e diventare essi stessi artefici della propria vita e di una costruzione solida del proprio futuro. È molto importante quello che lei ci ha appena ricordato, professor Rosina, perché uno potrebbe dire: ma forse sono gli italiani, qualcuno me l'ha anche scritto, che non vogliono fare i figli per godersi la vita di più. Guardate che i dati, appunto, di ricerca ti dicono che l'intenzione è identica ai francesi. Il problema è che tra il dire e il fare noi abbiamo un mare in mezzo che si chiama assenza di politiche economiche per la famiglia. Vedremo i vari partiti che cosa proporranno di concreto su questo, anche a costo di toccare altre risorse e aggredire un po' di spesa pubblica. Ma venerdì non è ancora domani. Io ringrazio il professor Alessandro Rosina e per questo intervento. Grazie a tutti voi in ascolto. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi per un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24, libera la voglia di fare.